Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono sul lago di Como, a Tremezzo, nella Tremezzina, cioè nel punto più bello e più ampio del lago, e vi voglio accompagnare a visitare una celeberrima villa, la Villa Carlotta. La Villa Carlotta è celebre soprattutto per i suoi straordinari giardini all'inglese, per le fioriture che dalla primavera all'estate la rendono celebre in tutto il mondo. Noi ne parliamo perché questa villa compie quest'anno 90 anni, nel senso che 90 anni fa la si praticamente sequestrò ai proprietari, che erano dei tedeschi, quindi 90 anni fa erano dei nemici, e per fortuna, creando un ente apposito, la si salvò dalla dispersione e dalla vendita. Fu veramente un fatto molto positivo, perché queste ville facevano gola praticamente a tante persone, e oggi noi possiamo andare ad ammirare questo luogo praticamente intatto grazie a quell'idea di fare l'ente, con naturalmente dei personaggi che erano della zona, industriali, magistrati eccetera, che si presero l'onere iniziale di creare il fondo, e poi naturalmente la villa ha cominciato a camminare con le proprie gambe. Questa villa risale al 1600, era in realtà della famiglia Clerici, una famiglia che si era arricchita moltissimo tra l'altro con un commercio sul lago, e poi era diventata una delle famiglie più importanti della città di Milano, talmente importante che fece il passo più lungo della gamba. Questi Clerici erano degli spendaccioni pazzeschi, e si circondarono di ville, di palazzi. Pensate che a Milano il loro palazzo venne affrescato da Tiepolo, naturalmente andarono in rovina. Alla fine del Settecento la Villa Carlotta fu venduta a un tal Sommariva, uno dei personaggi più importanti della Milano napoleonica, che si trovò a arricchire la villa soprattutto di opere di Canova, perché Canova era stato in quel periodo l'artista di punta. Poi la villa venne venduta a una famiglia tedesca, una famiglia molto importante, erano addirittura i discendenti dei re di Prussia e poi degli elettori di Sassonia, Meiningen si chiamavano. Ecco, questi signori purtroppo incapparono nella prima guerra mondiale e furono costretti come nemici a lasciare la villa, e lo Stato italiano riuscì attraverso l'ente a acquisirla e a farne la meraviglia che oggi noi possiamo ammirare.